Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Questo professore universitario che si converte all'Islam è importante che sia seducente. Non vuol dire che io lo approvi, ma deve essere seducente e lui lo è. Lui sceglie per interesse, per curiosità intellettuale, perché vuole una vita piacevole. Non lo approvo, né lo condanno. Ma anche se sei ricco, Palomo, che bisogno c'è di sprecare tutti questi soldi con una linea erotica? Non hai una moglie, eh? Cosa? Moglie! Un cesso! Io vivo con un cesso! La vedessi, ha i capelli color topo, l'alito fognato, un culo cascante, rugoso, color piombo, ma soprattutto ha due tette che sembrano due buste. Mi sarete sorpresi? Avete sentito quelli di voi più raffinati, più avanti, che hanno letto qualche libro, che hanno voglia di rimanere nel dibattito intellettuale, che era un'intervista a Michel Houellebecq che parlava del suo ultimo libro, Sottomissione, e Fantozzi, che denigra il genere femminile e le mogli. Perché? Perché stamattina voglio parlarvi di Sottomissione. È il romanzo di cui più si parla, è uscito in Italia da pochi giorni, 85.000 copie tirate, è uscito in Francia il giorno della strage di Parigi di Charlie Hebdo, e quindi è un libro di cui si parla molto, e si dice è un libro che racconta la storia di un professore universitario francese che si converte all'Islam. Un libro che è stato molto citato, citato anche a sproposito, qualcuno lo vede come un nuovo libro di riscossa dell'Occidente, un libro profetico che parlerà di quello che stiamo temendo in questi giorni. I giornali sono pieni di militari in assetto di guerra che presidiano le piazze italiane e tutti ci aspettiamo da un momento all'altro un'invasione di terroristi, di tagliagole, di persone che ammazzeranno e massacreranno per imporre il loro dovere. L'Occidente è pronto a ribellarsi. No, il romanzo di Houellebecq dice esattamente un'altra cosa: non ci sarà nessuna strage, nessuno spargimento di sangue, sarà una conquista morbida, tranquilla, perché siamo già conquistati. Vi parlerò di questo libro, farò qualche spoiler, quindi quelli che sono interessati alla lettura non ascoltino, avranno delle anticipazioni; quelli che vorranno far finta di averlo letto per fare bella figura ascoltino, così avranno degli argomenti per poterne parlare. 800 24 00 24, quindi questa mattina vi porterò sul filo di questa provocazione. In fondo, perché non convertirsi? Quando se ci si converte il mondo diventa tutto più facile, tutto più semplice. Quella complessità, quel dolore e quella macerazione data dal pensiero razionale, data da chi si pone domande, data da chi pone dei dubbi, non può essere annientata improvvisamente se qualcuno ci dà un percorso dogmatico, delle regole, poche semplici regole di vita, e poi non bisogna più pensare, si sta tutti bene. Potevo andare in pensione, ma convertendomi ho avuto un aumento di stipendio. I musulmani hanno concesso al Partito Socialista i ministeri chiave delle finanze e dell'interno, ma hanno preteso in cambio carta bianca sull'istruzione. Chi controlla l'istruzione dei bambini controlla il futuro. La disoccupazione è in caduta libera grazie all'uscita in massa delle donne dal mercato del lavoro e alla rivalutazione dei sussidi familiari. Insomma, queste riforme mirano a restituire il suo posto, la sua profondità, la sua serietà e la dignità alle famiglie. La famiglia è la cellula base della nostra socialità. Non siete d'accordo su questo? Chi è che non è d'accordo? Scusate, lo predicano da mesi, da anni, da settimane, molti nostri politici lo dicono, la famiglia è il nucleo centrale della società. Cosa accade nella Francia che diventa musulmana? Ma ci diventa per un motivo molto semplice: la sinistra, spaventata in prossimità delle elezioni dall'ascesa di Marine Le Pen, fa patti con il Partito Islamico. C'è un partito islamico di fantasia ma molto credibile, fa dei patti, questi dicono beh benissimo, vi aiuteremo a vincere le elezioni, poi vinceranno loro naturalmente. Cioè, non vogliamo nulla, non ci interessa il ministero degli interni, del tesoro, non vogliamo mettere le mani, vogliamo solo il ministero della scuola, e quelli da veri coglioni glielo danno. Con il ministero della scuola in mano islamizzano la società, perché improvvisamente la scuola islamica diventa la scuola più finanziata, rimane la scuola pubblica, non è che c'è nessuna vessazione, ma converrà andare alla scuola islamica, che poi si lavora. Torna fiorente naturalmente anche il mondo del lavoro, perché le donne, per una legge che all'inizio la sinistra in qualche maniera ha provato a osteggiare, poi in fondo quando ha visto che erano tutti più contenti, i sindacati compresi, perché le donne vanno tutte a casa, non possono più lavorare, quindi il lavoro c'è soltanto per gli uomini, le donne a casa, le donne non hanno bisogno più di studiare, studiano soltanto economia domestica, solo qualche attività artistica e letteraria, ma solo alcune, non tutte. Cambiano un po' i costumi, sì, si comincia a vestire tutti in una certa maniera, delle lunghe bluse che coprono le gambe, ma in fondo anche l'aspetto sessuale, la repressione, ma lui dice, ma sai, in fondo forse quando non si vedranno più donne scollacciate in giro, anche il desiderio cala, e poi è permesso la poligamia, improvvisamente ci si può sposare con più donne, si sposa con delle ragazzine di 15 anni, vede dei suoi colleghi improvvisamente ricchi, gli triplicano lo stipendio, perché? Perché vogliono subito la Sorbona viene acquistata da diciamo la comunità islamica, viene finanziata fortemente dagli stati arabi, diventa un'università musulmana e chi ci lavora è ricchissimo, ha degli ottimi stipendi, può avere tutte le mogli che vuole, insomma lui capisce a un certo punto che questa società così disimpegnata è la società migliore, conviene sottomettersi, perché se ci si sottomette si vive meglio. Scusi, questa è la sua stanza? Certo. Vabbè, ma le 100 piante di ficus e le poltrone di pelle umana e il grande acquario nel quale nuotano dei dipendenti sorteggiati? Voci, caro Fantozzi, messa in giro dalla propaganda sovversiva. Un sorso d'acqua o un tozzo di pane? Ma, scusi Conte, io mangiare con lei? Ma certo, che differenza c'è fra me e lei? Ma abbia pazienza, ma come che differenza c'è? Non mi vorrà mica dire, signor Duca, che siamo uguali io e lei. Voi siete i padroni, gli sfruttatori, noi invece siamo gli schiavi, i morti di fame. Oh, ma caro Fantozzi, è solo questione di intendersi, di terminologia. Lei dice padroni e io datori di lavoro, lei dice sfruttatori e io dico benestanti. Quello che mi capita di immaginare è che in realtà questo passaggio non è poi così cruento. Io ieri ho provato a scrivere su Facebook per pura provocazione, questo libro mi ha colpito, mi aveva esaltato, spiegando, pensate che bella società, si lavora tutti perché le donne stanno a casa, si può essere poligami e tutti mi hanno detto che bello, che figata, finalmente, possiamo fare quello che vogliamo. Guardate che Fantozzi in fondo è già un sottomesso, noi che abbiamo una società basata sul fantozzismo, cioè basata sulla sottomissione, proprio per il fatto che non si hanno valori da difendere, si ha solamente a difendere il proprio benessere, la propria capacità di galleggiare, di sopravvivere, quante persone si arruffianano i preti, si arruffianano la chiesa per avere vantaggi nel campo lavorativo, quanti diventano cellini per questa ragione, quanti improvvisamente si appoggiano a un'ideologia che non condividono, e quindi niente di più facile che questa islamizzazione intesa come razionalizzazione della società in base all'azzeramento totale di tutti i picchi di dissenso possa avvenire tranquillamente. E guardate, non è che è la contrapposizione fra l'Occidente cristiano e l'Islam, no, non è così. Quello che fanno capire velocemente è che i cristiani non sono un problema per loro, avranno tutte le chiese che vogliono, figuriamoci, anzi sono i primi che facilmente potranno convertirsi, perché in fondo non hanno poi valori reali da difendere. Il vero pericolo sono gli ebrei, ma anche gli ebrei è meglio che si allontanano, che se ne vanno a Israele, perché sa, con loro c'è un discorso un po' aperto per via dello Stato di Israele. Infatti la prima fidanzata del professore andrà subito a Israele, come è accaduto per gli scampati dell'attentato al negozio Kasher al centro di Parigi. E chi rimane? Rimangono i liberi pensatori, quelli che hanno il pensiero razionale, scientifico, si pongono le domande, quelli sono veramente quelli più duri a morire. 800 24 00 24, fareste voi il passo della sottomissione per vivere meglio? Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Il tuo punto di vista rispetto a questa lettura probabilmente eterodossa del libro di Houellebecq, che tutti vedono come un libro che si dovrà conquistare attentati e sciarie, ma secondo me è un libro che non può essere che accreditato e non può che piacere comunque a chi immagina un Occidente islamizzato. Secondo me tu ne dai una lettura molto interessante e aggiungo che è un libro che dovrà piacere a tutti i dogmatismi che cercheranno di conquistare terreno dentro la società non presentandosi in quanto tali, ma appunto non presentandosi col volto forte delle armi, è violento e cruento, ma presentandosi come una soluzione possibile alla convivenza, una facilitazione alla propria vita concreta quotidiana, oltre che a una scorciatoia per la morale o per conquistarsi un qualsiasi paradiso sappiano in qualche modo prospettare o addirittura promettere. In una bella intervista qua, sulla metafisica si strizzano un po' l'occhio, perché quando viene convinto alla fine da un rettore di università, dice, ma gli mostra un atlante geografico, dice, vedi tutte queste stelle, queste cose, può non esserci un'intelligenza superiore, fine, finisce lì l'aspetto metafisico, capisce che in fondo la sottomissione è molto semplice, piccole regole, un Dio che non ti rompe le scatole, se tu ti sottometti puoi vivere bene. La sottomissione passa molto più facilmente con una strisciante strategia retorica come quella che tu descrivi, che non attraverso le armi, perché è molto più facile essere rassicurati da una retorica di questo tipo. Molto spesso i filosofi hanno visto il nichilismo come il decadimento dei valori, ma c'è un nichilismo più sottile, che è quello che propone dei valori comodi, a portata di mano, che non ti mettono in contraddizione con te stesso. Ti stavo dicendo che di recente Houellebecq ha lasciato una bella intervista dove, dopo aver affermato che i valori dell'illuminismo non sono i suoi valori, ribadisco, non sono i suoi valori, questo si capisce, questo si capisce in maniera evidente, aggiunge un dettaglio: della libertà l'uomo non ne può più, è troppo faticosa. Ecco perché parlo di sottomissione. La libertà non è un territorio dato, è un compito da realizzare ogni giorno. Se tu vuoi conquistare la tua libertà, devi lavorare per quella degli altri. Nessun dogmatismo è davvero disposto a questo. Quando il borghese piccolo piccolo Alberto Sordi sta per essere iniziato alla massoneria, che in fondo è la sua sottomissione per trovare un lavoro al figlio, viene detto che ne pensi della libertà. La libertà è una bella cosa, peccato che ce n'è troppa. Melog, cronache meridiane. Sì, sono io, chi parla? Era veramente il mega presidente galattico in persona. Mi scusi se turbo l'intimità della sua casa in questa santa notte, ma io la passo qui, nel mio ufficio, perché per me il lavoro è preghiera. Avrei bisogno di parlarle un momento. Già qui? Accetto tutto. Ma come? Non ha neanche sentito quello che le ho detto? Accetterei comunque. Io mi arrendo senza condizioni. E allora venga, caro fantozzi. Venga. Perché dovremmo stupirci per la sottomissione che ci potrebbe chiedere un domani un possibile partito islamico, se la profezia di Houellebecq formulata in sottomissione, il romanzo che sta riscuotendo un immenso successo in tutta Europa, non fosse in realtà realizzata, già realizzata? E già mi immagino vedere gli Umarels per strada, invece di guardare i cantieri, guardano la lapidazione, magari perché qualche donna si è ribellata e dicono no, guarda, quel San Pietrino non va bene, non capite niente, e danno consigli comunque come lapidare. In fondo è una società che metterebbe tranquille molte persone, non occorre più pensare, non occorre più porsi delle complessità rispetto alla vita, non occorre più soprattutto difendere un principio che, se uno non lo percepisce come qualcosa da conquistare, come diceva il nostro ospite Stefano Morigi, è qualcosa di astratto. Voi rinuncereste alla vostra libertà per vivere meglio, per avere finalmente le donne a casa che si occupano della famiglia, per avere un lavoro tranquillo, per non aver bisogno di rincorrere le mode, perché tutti siamo vestiti uguali, tutti con la stessa tunica? In fondo il precetto è abbastanza semplice, basta pregare 5 volte al giorno. Anche sugli alcolici fa capire che in fondo ci possono essere delle concessioni. Per la attività sessuale, questo professore è abituato a farsi le studentesse, tranquillamente si trombava le studentesse, con quello stava tranquillo, continua a farsele lo stesso, sono velate e le sposa, non vedono l'ora di essere sposate, le sposa e può tranquillamente farne ciò che vuole. 800240024, Mario, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, grazie. Senta, sì, la sua provocazione in realtà non è così peregrina, perché a me pare invece che i fatti recenti ci dicano che noi ci stiamo avviando verso l'accoglimento di questa cultura. Non è così provocatorio, cioè le ragazze che tornano dalla Siria ancora con la kefia. Vabbè, quelle sono due rispetto al mondo, sono due ragazze rispetto alle altre. Le altre ancora, sì, grazie a Dio, si mettono il perizoma. Però dopo quello che è successo, i fatti di Parigi, quanta gente ha detto, beh, in fondo li avete provocati. Cioè, tutta sì, anche il Papa l'ha fatto capire, in fondo ecco, fatto, appunto. Prima c'era la sinistra che portava avanti questo tipo di cultura, adesso anche la Chiesa, che ormai è sottomessa come cultura cattolica alle altre culture, perché a furia di porgere l'altra guancia alla fine prendi i cazzotti a destra. Sì, ma non c'è una contrapposizione, mi scusi, quello che mi sembra aver capito dal libro di Houellebecq, che non c'è una contrapposizione, alla fine vogliono la stessa cosa. Infatti le chiese le lasciano, non gli viene nemmeno, certo, in mente nella Francia islamizzata di distruggere le chiese o vietare il culto. Facciano, dice, poi tanto alla fine sono talmente poveramente legati alla loro professione di fede che scivoleranno verso la nostra perché gli conviene. Stefano Moringi, tu che facevi una domanda, quella sì provocatoria, che cosa sareste disposti a rinunciare, no? Cosa, la libertà, alla libertà non si rinuncia, alla libertà non ce l'hai in partenza se non cominci a lavorare per ottenerla. E quindi il lavoro di qualsiasi forma di dogmatismo, devi affrancarti dai genitori, dalla famiglia, da tutto per essere libero. Beh, certo. E quindi che sia una chiesa o che sia un partito politico, è forte la tentazione per molti per cedere a un posto in paradiso piuttosto che un posto al sole. Sono promesse allettanti, la libertà non è una scorciatoia per conquistarti né un posto in paradiso né un posto al sole, e quindi cedere a queste tentazioni è forte, che vengono dall'Islam piuttosto che dal cristianesimo, dal fascismo piuttosto che dall'Unione Sovietica. La tentazione di una rassicurazione spirituale e materiale è assolutamente incompatibile con la ricerca della libertà. Noi viviamo in un paese in cui fa parte della facezia, la commedia sboccacciata, ma in cui abbiamo sempre preso tessere di partito per vivere meglio, senza curarsi mai se poi fosse corrispondente l'ideologia alla nostra visione della vita. E infatti siamo andati a una grande magma in cui non c'è più differenza tra destra, sinistra, centro, alto, basso. Paola, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, dottor Nicoletti. Ascolti, ma io volevo dire questo, ma a me sembra che qui continuate a parlare di sottomissione, ma mi sembra, da quello che ho capito, da quello che ha raccontato lei, che quel libro lì parla, l'unica sottomissione è delle donne. No, che devono rinunciare. No, le donne vanno stanno a casa. Sì, le donne, appunto, stanno a casa, certo, quello è chiaro. Appunto, quindi la sottomissione degli uomini, mi scusi, dove sta? Dove ma sta? Chiamano Allah invece che Dio, perché capirai che è sottomissione. Cioè, sono le donne che dovrebbero sottomettersi e rinunciare a tutto quello che hanno conquistato. Cioè, mi sembra che sia un po' così. Ma in fondo è la stessa cosa che vorrebbero anche i preti, se fosse possibile. Le donne che studiano poco, che si occupano della famiglia, diventano gli angeli del focolare, diventano persone che diventano esempi ideali di castità e di maternità e di gestione familiare. Le donne hanno fatto passi avanti, ma è giusto che tornino indietro, le donne saranno sottomesse. E io, se dico questo, non ho che consensi. Ieri mi hanno scritto tante persone: che bello, finalmente le donne abbasseranno la testa, che bello, finalmente non avremo più donne sul posto di lavoro, che bello, finalmente le donne staranno a casa. Secondo me gli italiani non aspettano altro. Sì, gli italiani uomini, certo. E le donne si facciano sentire, non so che dire, certo. Infatti, vi siete fatte scorpacciate di sfumature di grigio, in modo che sembra che non aspettate altro, qualcuno che vi dia le frustate sulle natiche. Quindi probabilmente avere un regime che lo fa istituzionalmente, se vi ribellate, probabilmente qualcuna sta anche bene. Paola ha parlato. Anna. Io? Anna. Sì, buongiorno. Sì. Senta, io ho detto alla signorina, forse mi farò lapidare, pazienza. Gli Umarell saranno tutti lì a dire, guarda, butta, ecco, il San Pietrino meglio. Perfezioneranno la lapidazione. Sì. Però, guardi, per gli italiani, se gli lasciano le partite di calcio, mi raccomando, perché non gli togliessero le partite di calcio. E perché vietarle? Non c'è problema. Per gli italiani è l'ideale, visto quello che mi circonda. Questa è la mia opinione. Quindi anche lei è d'accordo che in realtà la sottomissione non sarebbe poi una cosa così cruenta, così veloce, così penosa. Stefano Moringi, vediamo il punto. non vogliamo qua fare adesso gli ennesimi raccontatori del tramonto dell'Occidente, ma in realtà su cosa dovrebbe basare un principio di ribellione se non quello della razionale idea di poter avere una propria idea, una propria visione della vita, cambiarla continuamente? Assolutamente, soprattutto lavorare per il riconoscimento pubblico, riconoscimento pubblico, non privato, delle idee altrui e delle forme di vita altrui. Non c'è bisogno di arrivare alle insidie islamiche. Questa settimana a Milano c'è stato un convegno, peraltro patrocinato da Expo, che dovrebbe essere in qualche modo veicolo di contenuti attendibili, che sulla base di teorie scientifiche inattendibili tentava di delegittimare il riconoscimento pubblico delle unioni omosessuali, sostenendo addirittura che l'omosessualità è una malattia, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha smentito questa bufala. Quindi siamo già sottomessi. È già, non si aspetta altro. Già fatto. Non c'è bisogno dell'Islam, c'è già CL. Grazie. Gianni, do a dire qualcosa, che la nostra contrapposizione è troppo schematica, ma sintetizzo la sua domanda. Sì, siamo stati schematici. Leggetevi il libro, oppure avete argomenti sufficienti per fare bella figura e parlarne in società. Tanto sono pochi gli italiani che lo leggeranno. Sono già sottomessi.